Il punto di Stefano Folli. Nel caso di Marcello Dell'Utri espatriato in Libano, l'aspetto che più colpisce è la motivazione che ne ha dato Berlusconi. L'ho mandato io in missione per conto di Putin, ha detto in sintesi l'ex presidente del Consiglio, oggi in attesa di cominciare i servizi sociali. È questo distacco dalla realtà che colpisce, questo trasfigurare i fatti reiterando in sostanza la storia della nipote di Mubarak, stavolta con altri protagonisti della scena internazionale. Sono indizi che tradiscono una crescente mancanza di lucidità, un estremo declino. Per cui anche il suo portavoce, che da tempo non portava alcuna voce, lo abbandona cinicamente per sistemarsi altrove. E la domanda ancora una volta è: dove finiranno i voti di Berlusconi? Chiarito che una parte resteranno comunque a lui e ai suoi fedelissimi, la quota in uscita andrà a Grillo, a Renzi, ad Alfano o finirà nel grande lago dell'astensione? A ben vedere è questo il vero interrogativo delle elezioni europee, il fattore in grado di spostare gli equilibri e stabilire vincitori e sconfitti.